slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. What a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man. Yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stopped on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta stitch it. She's a neat trick, but she bought a make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll stitch it. Yeah, yeah, yeah, don't you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, click click click, I'll fix it. Yeah, yeah, I gotta click a little chick. I don't you know she's slick. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Slick Chick su Radio Wombat, 20:53 del 21 maggio 2019, in ritardo come sempre, ma vabbè, è così, non devo accampare scuse. E però mi faccio perdonare perché stasera ho una puntata in serbo per voi. Veramente importante, un puntatone potrei dire, e tra l'altro non dovrei neanche usare il singolare perché l'abbiamo preparato, siamo in due qua, c'ho un ospite importante, saluta ospite. Buonasera, Prog, sono tornato. È lui, è in mezzo a noi di nuovo, Prog 75, Prog 8000, i numeri primi o quello che volete. E beh, perché è con noi? Non stiamo preparando la puntata sullo zucchero, anche se insomma, aspettatevela prima o poi perché ce l'ho in serbo, ma non è quella di oggi. Ora è completamente fuorviante, forse il primo pezzo che abbiamo messo uno potrebbe farsi delle idee sbagliate, ma invece no. Allora, la storia è così, è questa, ve lo dico subito. C'era qui Prog 70 che aveva in mente un format, secondo me si dice così nei sì, posti sì, quelli più professionali. Quelli seri, sì, che sanno cosa dicono, dicono format. Aveva un format stupendo per una trasmissione nuova su Radio Wombat che io non escluderei che un giorno o l'altro in realtà vada in porto, però diciamo che ancora per il momento non parte, stenta a partire, giusto? E quindi cosa succede? Che siccome però questo format fa gola a tanti, perché insomma lo vedrete, è ricco, è un format ricco, allora abbiamo deciso di ospitare una parte di questo format a Slick Chick e farne un ciclo, una rubrica, come vogliamo. Sì, io intanto mi propongo qui a Slick Chick e poi mi butto sul mercato e chi mi vuole ospitare in trasmissioni di Radio Wombat e oltre, anche Radio 3 magari, ma se sono interessati. Infatti, ma sì, tanto ormai mi propongo, sì, con il pacchetto completo. Ma sì, siamo un po' a pecciccia e comunque sì, direi che insomma, stai mettendo uno zampino dentro e poi vediamo. Eh sì, perché allora, innanzitutto c'è un titolo, il titolo è Italiani poi era gente, giusto? Sì, sì, era quello che IPG. Che avevo, sì, IPG. IPG, che... Italiani poi era gente. Allora, spiegaci bene il format che avevi in testa e quindi anche la puntata di oggi, il tema della puntata di oggi di Slick Chick. Bene, diciamo che... proseguiamo con il discorso cover che aveva fatto Bloody Mary su Slick Chick. Giusto. E qui c'è una piccola variante perché sono solo cover italiane di brani musicali dagli anni 50-60 fino agli anni 70 di grandi successi internazionali, quindi internazionali si parla di inglesi e americani. Beh sì, perché quello c'era. Quello era... Il mondo finiva lì, c'erano sì, le colonne d'Ercole. Sì. Certo, sì. La musica finiva lì tra le due. Esatto. Tra la ex colonia inglese e quell'altra. E quindi io, facendo una premessa, nel mio vecchio programma Il rovescio della medaglia, dove si trattava solo di progressive italiano, abbiamo scoperto delle cover di brani progressive inglesi degli anni 70, rifatti, reinterpretati da cantanti italiani, soprattutto cantanti italiane. Cantantesse. Sì, perché era d'uso in effetti, cioè c'era questa... Tra l'altro io una cosa che avevo scoperto era che, tu la saprai meglio di me, che cioè per partecipare al Festival di Sanremo, gli artisti internazionali che partecipavano, perché comunque in gara potevano entrare anche i non italiani, perché non c'era Salvini ancora prima, gli italiani, no, potevano entrare tutti, e quindi entravano in gara anche gli altri, però a patto di cantare in italiano. Quindi in realtà cosa succedeva? Che magari io ho il ricordo di Stevie Wonder, però sicuramente ce n'è altri, che partecipavano sì al Festival di Sanremo ma con una canzone cantata in italiano, quindi probabilmente con un testo inventato, magari riscritto da Mogol o chi altro. Mogollato. Mogollato. E quindi tutti erano felici a casa, gli telespettatori erano tutti contenti che vedevano sì l'esotico ma comunque con rassicurante italiano. Giusto. Sì, spesso duettavano con cantanti italiani o addirittura facevano la versione originale in lingua inglese con la versione italiana modificata, tradotta non si può dire perché no. Spesso i testi venivano stravolti. E infatti, ma spesso anche il senso, cioè, poi lo vedremo insomma nel corso di questa puntata e nel corso delle prossime, perché vi preannuncio che questo è solo un assaggio, ecco. E poi immagino che i nostri centralini saranno subissati dalle chiamate, sì, che ne vorranno ancora. Certo, io facendo una ricerca così proprio a spanne ho trovato dei database che parlano di 3000, siamo sulle 3000, 2005, 3000 cover. Capito. Perché non si inventa niente. Fino agli anni 80, poi questa cosa finalmente è finita. Ci siamo dati pace. Sì. Sì, però devo dire che alcune sono notevoli, cioè alcune sono dei pezzoni. Sì, ci sono ovviamente su cantanti magari di una certa importanza, hanno lavorato molto sugli arrangiamenti, quindi anche sulla musica, oltre che sui testi, che magari non erano proprio inerenti, ma... Sì, comunque il risultato non è male. Sì, su altre invece è scempio totale. Su altre è una roba veramente trash, che però è divertente. Perché anche, ovviamente sappiamo che negli anni 60, 50, 60 non era così facilmente diciamo usufruibile la musica. La musica straniera, la musica internazionale, sì. Soprattutto per i gruppi emergenti, per comunque chi non aveva possibilità di comprare dischi o di cioè non era un mercato facile. No, infatti. Quindi anche questo tentativo è comunque stato apprezzabile. Che si doveva fare? Era un tentativo per provare in qualche modo di portargli lo stesso qualcosa che non era proprio solo, non lo so, le tre cosette che arrivavano. Quindi io direi, allora adesso abbiamo iniziato subito così a bomba per iniziare, abbiamo cominciato con Sugar Sugar, che è degli Archies. Ora noi non abbiamo proprio, non vi faremo sentire sempre l'originale e la cover, perché sennò la trasmissione dura 6 ore e voi vi sparate probabilmente, anche perché... Sì, diamo degli assaggi. Diamo degli assaggi, vediamo, perché quando poi appunto magari merita, allora le facciamo sentire tutte, però se no è così. Diamo un assaggino e poi ci censuriamo. E in questo caso gli Archies ve li abbiamo fatto sentire per intero, Sugar Sugar, brano del 1969, e qui c'è la cover e già siamo nel giallo, perché io in realtà avevo trovato un'altra versione che era quella che avevo in testa, italianizzata, di, ora già ho dimenticato il nome, Valentina Morgandini, una cosa del genere. E invece qui abbiamo un'altra versione di Lara St. Paul. Lara St. Paul, una cantante di origine eritrea, poi sì, vissuta in Italia e ha pubblicato, ho visto, tra gli anni 60 e gli anni 70, un bel po' di dischi, di single. E, tra aerobica, c'era di tutto nel mezzo, quindi... Di l'anno, diciamo, della nascita di Lara St. Paul. L'anno della nascita 1945. Quindi Etiopia, abbiamo detto. In Eritrea. Quindi abbiamo già detto tutto. Chi ha un minimo di storia nel cervello, ecco, si faccia 1+1 e faccia uguale 2. Sì, è così. 69. E credo che anche questa sia del 69. Cioè, perché un'altra caratteristica interessante è che queste cover comunque venivano fatte subito. Cioè, generalmente passava massimo 2 anni, cioè comunque c'era la hit del momento e loro, boom, subito facevano uscire la loro versione. Sì, sì, proprio battevano il ferro finché era caldo, perché sì, comunque, cioè, pensare un brano che esce negli Stati Uniti, in Inghilterra nel 69, prima che diventi famoso anche in Italia, passava un po', insomma, non era così immediato, quindi... Loro subito... Sì, infatti non è come adesso che ne so che fai la cover di Elvis e vabbè, è passato 50 anni, dici ok. No, lì era proprio la cover, che ne so, mi era Justin Bieber, ma Justin Bieber era già un po' vecchio. Cioè di non so, Lady Gaga, neanche, madonna come sono vecchia. Di un cantante moderno, ecco, di ora, vabbè, di sfera e basta. Lady Gaga va bene. Dai, Lady Gaga si può... Dai, altri 20 anni ce la portiamo dietro. Dai, sì, infatti. Va bene, ci ascoltiamo quindi la versione di Lara St. Paul, Sugar Sugar, che comunque già il titolo io direi che merita tutto, cioè, quindi non Sugar Sugar ma Asciuga, Asciuga. No, vabbè, cioè, è Nuvole. E fino a qui va tutto bene. Sì, qui siamo sul didascalico. Sì. Insomma, più o meno, asciuga, insomma. Sì. Poi parlava della partita. Cioè, perché comunque, insomma, bisogna anche tradurre i termini culturali, no? Cioè, comunque immagino... Allora, io devo dire, non mi ricordo di cosa parla Sugar Sugar. Cioè, se non una roba tipo, immagino, sino, Sugar, tesoro, sì, oni, quella cioè, roba lì. Però ecco, immagino che non parlasse della partita di calcio, non lo so. No, quello, il giornale, il quotidiano e la partita ovviamente. Ci ha messo Lara, questa cosa sì. Del non si può parlare più sì. Perché vai sempre alla partita. Questa è più appunto un calare nella cultura italica, ecco, giusto. Tristemente. Trista. Italiani poi era gente, anche per questo. Poi, siamo così, non tutti da sminuire, ma insomma. No, comunque il cibo è buono, cioè, qualche volta c'è anche il sole, no? Non in questi giorni, non so. No, diciamo da mesi, ma insomma dice, raccontano che c'è il sole. Allora, io passerei tosto al prossimo brano, che è un brano, anche questo dal titolo molto evocativo, che è Da Du Ron Ron. Sì, che rimaniamo sullo stesso periodo. Più o meno sullo stesso genere, un po'... Sì, sì, un po' così, così, allegro, allegrotto. Stiamo sull'allegria. Sì, siamo nel 1963, la cover, cioè scusate, l'originale dei Crystals. Crystals, anche qui, band che poi ha sempre soul e affini. Che poi in realtà lo sentirete, insomma, è abbastanza da Du Ron Ron, in realtà è un classicone del soul, e poi insomma, loro hanno anche più o meno il repertorio era tutto abbastanza simile, ma insomma sono stati abbastanza famosi, non erano proprio i primi riportati alla piena, come dire. Nel 64, un anno dopo, Remo Germani effettua la sua cover. Ora io francamente chi sia Remo Germani non però ho visto il video, perché su YouTube c'è un video molto bello dove lui è molto tutto un po' secco, un po' sciupato, devo dire, però canta questa la sua versione di Da Du Ron Ron, che qui attenzione non ha tradotto, perché la traduzione di Da Du Ron Ron probabilmente sarebbe non so Dado, non so che poteva venire fuori, e quindi ha deciso la filologia ha deciso di rimanere Da Du Ron Ron. Non so, che dici, facciamo sentire entrambe? Facciamo sentire l'originale? Io sì, darei un accenno dell'originale per richiamare l'attenzione un po'. Sì, perché magari non ve la ricordate, pazzi. Sì, e poi dopo la sfumiamo e mettiamo l'altra. Dai, perfetto, famo così. Run, run, run, run, run. Vabbè, cioè... vabbè, vi confesso che però stavamo quasi ballettando sì, sulle no. nostre sedie. Ma infatti, ma perché spaccava in qualche modo, cioè non so bene come, ma c'è il gatto, capito? Il gatto che fa da tu ron. Perché in effetti come fa il gatto? Ma così, è evidente. No vabbè, ma come si fa... Che poi qui c'erano, a microfoni spenti, parlavamo di dei dettagli biografici, perché Prog 1700, che non è un pivello, insomma, aveva questo nome Remo Germani in testa, e quindi, sì, perché, ma te lo ricordavi? Remo Germani... Infatti era... ho detto Gironi. Germani. Ah, pensavo di aver detto Remo Germani. Mi suonava qualcosa in testa, e dopo guardando un po' qua e là... ho scoperto che lui ha vinto un festival bar o una di queste manifestazioni canore degli anni 60. Che bello con... che dici manifestazioni canore. Sì, mi sono immedesimato negli anni 60. Giusto. Con un brano che si chiama Non andare col tamburo. E ho scoperto dopo un po'. Che il mio ex professore di cinema Mario Garriba, che purtroppo non è più con noi, che era stato un grande regista, sceneggiatore, e intorno ai 18 anni fece questo concorso e scrisse questa canzone per partecipare come autore al Festival Bar, cioè, o quello, 18 anni? O quello che è. Sì, era giovanissimo, grande. E vinse questo concorso, gli presero questo brano, questo testo. Non poi andare dopo col tamburo. Non andare col tamburo a dire che io ti baciai, era questa la cosa. No, perché... E rimase praticamente del suo testo solo il ritornello. Mm-hmm. E lui gli dettero tipo all'epoca 1000 lire e non gli dettero mai i crediti, non risulta mai. Per fortuna poi ha fatto carriera come sceneggiatore, come regista. E è non viene ricordato grande... come... No, per fortuna. fatto, andava meglio, diciamo, così. Ricordiamocelo per Direi altre che cose. Forse è andata meglio così alla fine, dai. Va bene, nella sfiga e nella truffa gli è andata bene. Però sapeva scrivere, almeno è partito da lì qualcosa. Cioè, infatti, voglio dire. Va bene, e quindi questa era la storia, beh, non diremo Germani, ma insomma c'entrava un po' con lui. E da Turon Ron l'abbiamo portata a casa. Bene. Ora, c'è un altro brano che è famosissimo. Io farei sentire soltanto un accenno, poi lo spengo subito. Sì, così. Perché noi, se non mi ricordo male, è passato due o tre volte qui a Slick Chick, quindi... Sì, perché a me piace tantissimo e quindi ora però non ve lo posso ripropinare per l'ennesima volta. Quindi diciamo soltanto... Questa... Sì, sì, per farvelo sentire. Era quasi una dedica a Bloody Mary. Sì, questo. Sì, infatti. Come fai a non metterlo? Ma infatti... Put a spell on you. Ve lo ricordate? Eh sì, è proprio lui. Questo era questo qui. E ecco, questo non ve lo facciamo risentire. Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. Brano, non mi sono scritta l'anno, ma vabbè. Mi sembra del 55. Addirittura. Mi sembra presso? O 56. Ci sta, sì, sì. E in questo caso, però, la versione italiana è arrivata 10 anni dopo. Perché? Ah! Ah, attenzione. Sì, 55-65, no? O 66-66, scusate. Beh. Perché comunque, già, insomma, negli anni 50, chi è che conosceva Screaming Jay Hawkins? Tra l'altro è difficile da imitare Screaming Jay Hawkins, perché insomma era un personaggio che oltre alla voce incredibile che aveva tutta una postura sua, tutto questo personaggione da stregone africano, insomma era impegnativa. Ma come anche come voce, poi ora scoprirete, non è che l'hanno fatto cantare a Drupi o a qualcuno che o a Fausto Reali. Ma no, Benzi, ci mancherebbe. Bensì a Caterina Caselli. Caterina, la grande Caterinona, che comunque ritornerà, ve lo dico, in questa scaletta. Non è l'unico brano che, beh, insomma, ci ha abituato alle sue interpretazioni. E si è cimentata, ci ha provato. E ha fatto questo I Put a Spell on You, ve lo ricordate? Cioè, brano, I Put a Spell on You, quindi ti lancio un incantesimo. E lui era, non so se vi ricordate il videoclip di Screaming Jay Hawkins o comunque le registrazioni di qualche live, lui era proprio vestito da stregone voodoo, era tutta questa cosa un po' dell'horror voodoo rock and roll, che quindi si doveva anche spaventare chi aveva di fronte, c'era l'esotico e tutto quanto. Caterina Caselli ha fatto la sua traduzione di questo brano traducendolo in Puoi farmi piangere, così, che tra l'altro io ora lo sentirete, cioè non ho capito bene se era una roba un po' alla Sadomaso, perché Puoi farmi piangere, cioè mi ha lasciato un po' sconcertata, devo dire, cioè. Sì, non si capisce se è un tipo un lascia passare, sì dai vabbè fammi piangere sì, oppure fammi male oppure, sì. Non... ma sì, si capisce. Non si capisce bene, però. No, perché boh, giudicate voi. Comunque il pezzo è una perla, soprattutto l'inizio è veramente una perla, sì. Poi a un certo punto si ripiglia un po'. Abbiate un attimo di pazienza che poi si riprende. Sì, no, infatti non cambiate canale, come dicono. Perché poi dopo si ripiglia, se sentite. Puoi farmi piangere, perché sei mio, puoi farmi tutto quello che vuoi, no vabbè. Poi non farci caso se tu cosa a volte vedrai cosa negli occhi miei soltanto lacrime. Ah, va bene. Puoi farmi piangere, però perché sei mio. Ah, No, no, perché qui parte, senti. Parte. Puoi farmi piangere. Perché sei mio. Puoi abbracciare tutte le donne che vuoi. Ma resterai sempre mio. Puoi calpestarmi, sai. Puoi farmi anche soffrire di più. Puoi farmi piangere. Piangere. Lavoro. E anche questa è fatta. Eh? Più di mia madre, più di tuo padre, di mio padre, no vabbè. Capolavoro, capolavoro. Poi abbiamo apprezzato anche quando si faceva tornare la metrica, andando accelerando, invece che togliere delle sillabe accelerava. Sì, anche quando sei andato via. No, bellissimo. Quasi Elio, quando non gli tornano le cose e velocizza. Sì. Avrà preso Elio. Sì, da... certo. Certo, qui allora adesso abbiamo anche qua un'accoppiata notevole, l'accoppiata tenerezza direi. Sì, qui c'è proprio tanta tenerezza. Tanta tenerezza, cuori, proprio cuori. E non sembrerebbe dall'inizio perché il brano originale è degli Who, il famosissimo The Kids Are Alright, tratto da My Generation del 65. E un pezzone, insomma, ce l'avrete assolutamente in testa, anche se comunque ci piace, quindi ve lo facciamo sentire lo stesso. E nel 67, due anni dopo, viene effettuata una cover da dei personaggi teneroni. Che si chiamano, infatti, i Cuccioli. I Cuccioli. I Cuccioli, che già guarda solo per non so, aver usato chiamarsi Cuccioli, io che gli devi dire? Cioè. E poi hanno prodotto ovviamente solo un 45 giri. Ah, ecco. E basta. Poi fine. Ma perché quando tocchi certe vette poi non è che puoi... Cioè, No. Cioè, devi anche saperti fermare. Ora non so sull'altro lato cosa ci fosse, ma non vogliamo indagare. No, quello lo lasciamo a Basement Records, se lo ritrovo in qualche cantina, magari dai, lei dama. Però noi censuriamo. Noi ci facciamo bastare Tu non sai... che è la versione italiana dei Cuccioli di The Kids Are Alright degli Who. E se non vi ricordate come faceva l'originale, sentitevela. I don't mind other guys dancing with my girl. I'm not scared. così, sempre tu resterai, sempre tu resterai. Ormai sto da Dio, non posso più, perché tu lo sai che il mio amore vivrà nel mio cuore per te, finché tu lo vorrai, finché tu lo vorrai. Tutti i giorni penso a quel che vabbè, abbattiamo i cuccioli. Ci hanno provato. Ci hanno provato. Comunque era abbastanza didascalica, c'era uguale, proprio non si notava la differenza, no? Cioè, no, proprio... a parte tutto. Ecco, a parte tutto. A parte qualsiasi cosa. Bene, e questi erano i cuccioli e la loro versione di The Kids Are Alright, degli Who, Tu Non Sai. Che tra l'altro io mi sono dimenticata, ma questa puntata io la volevo anche dedicare, volevo fare una dedica, come si fa nei posti quelli non seri, a una nostra assidua ascoltatrice, affezionata di Slick Chick in particolare, che ci ascolta dalla California, scusate, cioè, perché ho certi, cioè, io non è che un pubblico così dozzinale che mi ascolta da Campi o da Calenzano, no, certo. Cioè dalla California, e non quella vicino a Livorno, no, no, proprio so California, USA, quella lì, cioè, yeah, e, che giustamente... aveva apprezzato la puntata sulle cover e diceva: ma quando è che ci fai, insomma, a noi poveri esuli italiani ci fai contenti con un po' di musica, insomma, che ci fa rimpiangere le nostre terre natie? Ecco, bam! Non era questa. La prossima volta faremo le cover dei Beach Boys. Dici che non intendeva questo? Non lo so, non credo. Vabbè, io l'ho interpretata così, ecco, quindi ti ho accontentata, carissima amica californiana d'adozione, che ora forse smetterai di ascoltarci, penso, e inizierà. Sì, perché mi sembrava un po' critica verso la Summer of Love, il periodo che noi stiamo ripercorrendo. Tutto, tutto. Tant'è che adesso arriviamo ai Doors. Ecco. E qui è proprio Summer of Love, qui siamo proprio nel mezzo, pieno. E, ma certo, ma noi italiani appunto anzi ci giochiamo, mica certo. Io infatti per questa occasione non metterei l'originale, perché no, sono due brani famosissimi dei Doors, non abbiamo voglia di ascoltare. No, per l'amor di Dio, tanto cioè, appena mettiamo la cover già capite subito, cioè la riconoscete, secondo me non c'è bisogno. Quindi, ma neanche la seconda, no? Tutto, no, niente, solo cover. Solo cover. E quindi a questo punto io... Ma senti, ma ti propongo, ma non diciamo neanche che canzone è. No, facciamo un quiz. Infatti, un quiz. Che cosa sarà la prossima? Che cosa sarà la prossima canzone? Mi raccomando, scrivetecelo su postawombat@insiberia.net e al numero 222666. Non è vero, non abbiamo un numero di telefono, non ce l'abbiamo. Però voi pensateci, eh? Tra noi il fuoco è spento ormai, di questo amore prima o poi non resterà nient'altro per noi che cenere e niente di più. Fiammifero e poi dai ancora fuoco all'amore, fa che brucia ancora per te. Succede non si sa perché, che cerchi altrove ciò che hai già lì vicino a te. Succede ed è successo a noi. Prendi un fiammifero e poi dai ancora fuoco all'amore, fa che bruci ancora. sera, che senso c'è sciupare così il tempo che l'amore ci dà? Prendi un fiammifero e poi dai ancora fuoco all'amore, fa che bruci ancora per te. Dammi fuoco e brucerà, dammi amore davvero, io aspetto sempre che tu mi ami un poco di più. Dammi fuoco e brucerò, dammi amore e t'amerò, io aspetto sempre che tu mi ami un poco di più. Che... Questo pezzo mai sentito. Non ve l'aspettavate, eh? Prendi un fiammifero. Cioè, e questo e qui si potrebbe proprio fare del... E poi questa, nonostante tutto il brano dei Doors, quindi questo stampo beat, soprattutto nel cantato, gli è rimasto proprio... Sì, è vero, non si sa se era una scelta discografica, cioè perché comunque glielo imponevano in qualche maniera, o se era il gusto dell'epoca, vai a capire. Sì, comunque meraviglia proprio. Gli Innominati si chiamavano questi, prendete nota. Nel 67, lo stesso anno, cioè proprio bam, subito, così papam. È perché quando, appunto, come dicevi prima, bisogna battere il ferro finché è caldo. E light my fire, infatti. Facciamo sentire subito l'altra. Anche sì, questa. Sì, vai, questa senza dire niente. Questa un anno dopo è uscita, cioè l'originale nel 68 e quella dopo nel 69, ma anche questa insomma è strafamosa. Perché ci hanno lavorato molto di più sugli arrangiamenti. Sì, sì, soprattutto sul testo. Sì, ma infatti si sente e anche il titolo, poi ve lo diremo, insomma è molto, insomma, appunto si sente che c'è un lavoro dietro. Un lavoro anche sulla metrica, secondo me. Sì, assolutamente. Sentite. Faccio a dir di no, tu vinci sempre e lo so che contro te io perderò. Vinci sempre e lo so. E lei era Katie Line, pseudonimo di Catherine Denise Frédéric Bolovan. Bolovan. Che si chiamava Bolovan, davvero? Non lo so, era la mia pronuncia francese. Però era una cantante francese che però ha avuto anche una sua fortuna in Italia con il clan Celentano. E abbiamo detto tutto. E abbiamo detto tutto. Sì, direi anch'io. Va bene, va bene. Questa l'avrete forse riconosciuta, insomma, nonostante insomma, la cover non proprio didascalica, era Touch Me dei Doors, tratta dall'album Soft Parade, sempre del 68, e Cathy Lyne appunto l'ha tradotta in Tu vinci sempre. Che comunque, cioè, che fastidio, tu vinci sempre, non se ne può più. No, proprio una sconfitta. Madonna, cioè, comunque la vedi, che palle. Va bene, ma lasciamo la Summer of Love, direi. Basta, lasciamocela alle spalle. Sì. Forse la ripigliamo dopo, non lo so. No, no, no, forse... Ma da qualche parte rientra sempre. Sì, butti dalla finestra e ritorna. La maledetta. No, no, e ora però per un pochino no, restiamo fuori e passiamo al mio amato Bowie, che puraccio, ne hanno fatte di tutte. Mi dispiace. Mi dispiace anche a me, guarda, lui puraccio veramente. Tra l'altro noi non vi facciamo sentire gli scempi peggiori perché non ce la siamo sentita, cioè ora già tutto c'è un limite. Però Space Oddity, brano penso... anche attualmente tra i più famosi, forse il più famoso, non lo so, ma insomma strafamoso, sì, del 69 di Bowie, effettivamente fu un grosso successo nonostante Bowie era, insomma, non era così famoso al tempo, e quindi insomma fioccarono le cover, tra cui quella che una io mi ricordo, forse ne avevo già parlato anche in trasmissione un'altra volta con amarezza, che era scritta da Mogol, ragazzo solo, ragazza sola, cioè che veramente io penso come prendere un brano e devastarlo, cioè proprio sputarci sopra. No. Soprattutto anche la versione cantata dallo stesso Bowie in italiano. Esatto. Se non sbaglio. Era cantata da lui, ma forse proprio per la questione che si diceva prima di Sanremo, comunque non mi ricordo. Comunque sì, gliel'ha scritta, gliel'ha riarrangiata a Mogol, insomma il testo l'ha scritto lui. Il povero Bowie, tra che era giovane, tra che secondo me non è che si rendeva bene conto di cosa stava facendo, ha preso appunto questa canzone che insomma c'ha tutto il suo mondo dietro e l'ha tradotta in una storiella adolescenziale che allucinante, in pieno stile Mogol secondo me, se posso permettermi, e tutto ciò avveniva l'anno dopo comunque, cioè anche qui. Quasi, quasi più dignitosa la nostra versione, sì, che vi proponiamo, dei Giganti. Almeno loro hanno, non hanno proprio, cioè hanno provato a, almeno il tema un po', sì, sul filosofico ci hanno provato. No vabbè, forse no, allora no, non esageriamo. Anche perché come inizio è terribile. E anche la, diciamo, la parte di parlato. Oddio, la parte di parlato. Un po' che sente un lieve dialetto, non so, di forse emiliano, romagnolo. Mi ricordo. Che messa magari uno su un'astronave che parla in romagnolo, non viene è molto. Bene. ma non perché è romagnolo, ma anche perché parla un dialetto. Cioè un accento di regionale che ne stona sempre in qualsiasi cosa. Italiani poi la gente, ecco, c'è persi, si ritorna lì. Siamo qui. Che noi ci si prova, ma non ci abbiamo proprio, come dire, vabbè, gli strumenti sono quelli che sono e i Giganti fanno la loro Corri uomo corri, così, vabbè. Ma io vi invito soprattutto a sentire la voce del basso, perché il basso è notevole, eh? Sì. Cazzo, sì. Quello è proprio, vabbè, sentite, va. Piangi, piangi, umanità, questa tua ingenuità. Nello spazio vuoi portare i sogni tuoi. Guardo il cielo e penso che ora l'uomo salirà. Cercare un'assoluta verità. Corri uomo, corri verso il sole, che il cielo tu aprirà come un angelo.

non ci sarà per lui pietà, ma il giorno verrà. No, non c'è pietà, non c'è pietà. Decisamente. E questo era un Ricky Gianco prima dei baffi, perché ho visto la copertina dei 45 giri e non aveva ancora i baffi. Ha capito. E penso sia stato anche questo il periodo dove lui ha, diciamo, militato nel clan Celentano. Capito, che scuderia che aveva. Sì, che coverizzava Unchain My Heart di Ray Charles, l'avete notato probabilmente, a un anno di distanza, 61-62, così anche questi. E proseguiamo velocissimamente. Secondo me hanno preso anche qualche sbronza insieme, Ricky Gianco e Ray Charles, però secondo me qualcosa hanno combinato insieme. Guarda, alla fine, cioè, i nomi si assomigliano anche un po' pure, io ce l'ho tutti scritti davanti, più o meno. Sì, le consonanti sono quelle. Ray Ricky, Charles Gianco, guarda che... secondo me c'è qualcosa. Tipo Unchain My Heart, non c'è pietà, metrica proprio stupenda. Bellissimo. Ora veniamo a un pezzone che purtroppo non possiamo farvi sentire nella loro interezza, cioè entrambi, perché durano 1000 ore, però varrebbe la pena in realtà, perché sono belli effettivamente, soprattutto, vabbè, ok, l'originale, ma anche, ecco, in questo caso l'ornellona ha fatto, sì, ci ha messo del suo. Non Ornella Muti, come state pensando. No, Ornella Vanoni. Esatto. E si parte dall'originale, che è dei Genesis, White Mountain, del 66. No, scusate, del 70. 72, sì, giusto. Trespass del 70. E 2 anni dopo l'ornellona si fa fare un riarrangiamento, un gioco senza età, che è il riarrangiamento italianizzato di White Mountain. Tra l'altro lo pubblica un album intero, ora io non mi ricordo assolutamente come si intitola l'album dell'ornellona, però... forse è omonimo. Potrebbe pure essere. Mi sembra... Sì. Qui siamo in pieno periodo prog, mi dispiace, sì, ma ci siamo tornati. Doveva succedere, ma noi vi invocavamo, quindi finalmente siete tornati. E quindi, sì, prog, e anche l'ornellona non è che ha potuto sottrarsi più di tanto, effettivamente. Chissà se Prog One ci sta ascoltando. Bastardo, io spero di infatti, sì. Ma se ci stesse ascoltando, mandiamolo a fanculo. Sì, sì, ma vaffanculo Prog One. Cioè, non abbiamo bisogno di te. Senti qua. E quindi, dedicata a Prog One, direi. Sì, ormai sì. Sì, dai, almeno una cosa carina. Sentiamoci l'originale, dai, e poi subito a bomba lo sfumiamo facendo quelle cose che io non so fare e andiamo e partiamo su un gioco senza età. Parte con calma il pezzo, cioè 8 minuti di silenzio. Thank you. Questi flautini censuriamo. Però dai, una bella linea, dai. Linea vocale di Ornella Vanoni. Sì, ma anche l'arrangiamento. Sì, tra l'altro guardavamo appunto Claudio Rocchi, quello che gli ha curato il... Non mi ricordo se tutto l'arrangiamento o soltanto il testo, onestamente non lo ricordo, degli Stormy Six, e insomma... personaggino e buffo comunque, perché effettivamente sentir rifare con la vocetta della Vanoni i Genesis è un po' sempre un po' un colpo, però vabbè. Allora andiamo veloci perché qua siamo in ritardo, abbiamo un sacco di pezzi ancora. Vi facciamo sentire come prima soltanto l'accenno di questo brano, sentite. We'll be right back. Ve lo ricordate? Basta questo. Dai, vai. Se no a ripetizioni. Potremmo fare un campus estivo. Un campus estivo di ripetizioni del Wombat. No, non lo faremo, ma questa era le Supremes, You Keep Me Hanging On. Anche questa in realtà penso di avervela rivogata qualche volta. Slick Chick, non ve la facciamo sentire per intero, ma vi facciamo sentire la versione dei Ribelli. Che... dei Ribelli con Demetrio Stratos alla voce, se non scusate, sbaglio. Scusate, non è che proprio qui si frigge con l'acqua. E vabbè, la versione anche qua non è proprio filologica, ecco, però almeno la traduzione, però chi mi aiuterà? Secondo me ce l'avete un po' presente, perché insomma è famosa, l'avete sentita sicuramente. Anche qui la distanza tra un brano e l'altro è di un anno, perché nel 66 esce il You Keep Me Hanging On di Diana Ross and Supremes e l'anno dopo i Ribelli, quindi proprio siamo sul pezzo, direi proprio letteralmente, sentitevela. Non so più cosa fare. Ti amo da impazzire. Non ci sei. Torna da me. C'è tristezza negli occhi miei. Ho perso l'amore. Non so chi mi aiuta. È un altro giorno ma non ci sei. È un altro giorno ma non ci sei. È un altro giorno ma non ci sei. Il tempo passa ma non ci sei. Che roba, versione strana. Versione strana con chitarra e voce. Sì, infatti siamo un po' inquietati perché non capivamo se eravamo noi che avevamo il mixer messo male con un canale che non andava. Ma probabilmente è una versione così. No, perché... sì, secondo me è una versione così, un po' a cappella. Boh, indagheremo. Sì, indagheremo e magari nella prossima puntata o nella prossima, non so, nella prossima apparizione mia. Certo. Capiremo. Risolveremo questo mistero. Questo sì, è vero. E, allora, ora abbiamo due canzoni da mettere veloci perché devono passare in fretta. Cioè, perché le abbiamo messe, perché andavano messe. Cioè, per onor di cronaca, queste vanno messe. Sì. Però non ci sentiamo di metterle per intero, ecco. Quindi io butterei subito l'originale. Facciamo un assaggino. Sì, anche qui i quiz, se capite cos'è, insomma, mandate le vostre mail a postawombat@siberia.net e non basta, non vincete niente, vi diciamo bravi. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? Ecco, questo era l'originale, ma insomma, non è che ve la dobbiamo far sentire tutta, spero, perché voi capiate che cos'era. Era Suspicious Mind di Elvis, del grande Elvissone, il Gotha. E quindi, siccome appunto qui si sta parlando di una specie di semidio, insomma, lo sappiamo, insomma, insieme alle altarine della Madonna ci sono quelle di Elvis, qui abbiamo chiamato... Vabbè, un altro semidio... Per quello che riguarda l'Italia, sì, sì, degli sì, anni 60, 70, 80. Il dio che ci meritiamo noi, ovvero Gianni Morandi. L'hai detto te. L'ho detto io. Ce lo meritiamo, cioè come dice Sordi anche. Insomma, sì. Questo è. E lui fa questa cosa qui. Io non mi sento di annunciarla. Che cosa dirò? Che cosa questo dirò? Lo dico io. Fa questa cosa, ecco. Cosa dirò a chi vorrà sapere quanto grande è il mare? Cosa dirò se tu mi chiederai una sola prova del mio amore? Ma perché non gli credi mai? All'inizio sembrava quasi Bobby Solo, sì, a un certo punto, poi è ripartito con la Morandata. Sì. Sì, all'inizio ci aveva provato, poi vabbè, è andata così. Va bene, abbiamo deciso di censurare e ora basta, ci sono gli ultimi due brani in scaletta di oggi qui a Slick Chick featuring italiani poi era gente, direi, e... dei quali due brani io non so niente, quindi... Dei quali due brani, diciamo l'originale è un brano degli Uriah Heep, un gruppo che è iniziato con diciamo, un po' di psichedelia, poi dato al prog, dal 1969 è ancora in attività, io un po' che ne ho perso le tracce, però sembra che siano ancora in attività. Hai capito. Una discografia ovviamente infinita, non vi sto a dire chi li conosce, se no ve le andate ad ascoltare. Sì. No, questo è uno dei brani più famosi, sembra quasi una ballata, e si chiama Lady in Black. Io, sì, no, di. Sì, è un, mi sembra sia del 71. Io non ho raccolto comunque, dati. No, ora questa mi sfugge comunque. Ma sì, ma tanto non se ne accorgono. Non se ne accorge nessuno. Sì, del 71. Mentre la cover italiana, L'Uomo del Paradiso, che se non mi sbaglio è di Mogol il testo, sempre cantata da Caterina Caselli. Ritorna, il cerchio si chiude. Il cerchio si chiude con... anche notate la differenza di titoli tra Lady in Black e L'Uomo del Paradiso. Sì, proprio, cioè, siamo agli antipodi. Lady, uomo, Black, Paradiso. Perfetto. Una figura retorica che usava Dante, ora non mi ricordo come si chiama, ma comunque c'è questo mix... Stroiatura, sì. Bene, allora con questo io vi saluto. Sì, noi dai. Vi salutiamo. Sì, vi salutiamo e vi salutiamo. E vi do appuntamento a mercoledì. No, madonna, ma io sono sempre rimasta a mercoledì. Ma è tipo 2 anni che non faccio la trasmissione. Martedì. Madonna, come si fa? Martedì, sempre intorno alle 8 abbondanti. Non disperate. Voi tanto restate in compagnia del Bobinone, che vi tiene compagnia finché non arrivo io, bella. E in replica, invece, chissà quando, già non me lo ricordo più. Ora ve lo dico, il venerdì alle 23 e il sabato alle 16:30. Quindi direi che vi lasciamo in compagnia degli altri programmi di Radio Wombat e del Bobinone. Intanto però vi lasciamo con Uriah Heep, Lady in Black e poi dicevamo L'Uomo del Paradiso di invece Caterina Caselli. Grazie a Prog 1500 per... Grazie a voi, a te e a tutti. Per la presenza e quindi alla prossima. Ciao ciao! Ciao! Prese